Tempo di sport. E sarà tempo di sport, però non dimentichiamo certo le buone abitudini. Quindi ogni venerdì apriremo a tempo di sport con un'ampia pagina di basket, di palla a spicchi dunque. Lo faremo naturalmente anche oggi, anche perché se il mercato del calcio è pressoché immobile, salvo un sacco di chiacchiere e salvo il solito Real Madrid, il mercato del basket è in ampio movimento. Parleremo dopo il basket, parleremo, già ve lo dico, anche di Tour de France che parte domani da Monte Carlo. C'è una notizia importante che è quella della ammissione a questo tour di Tom Bonen, chiacchieratissimo belga, che la settimana scorsa, che domenica scorsa ha vinto peraltro il titolo nazionale, che sarà uno degli uomini da battere nelle volate del Tour de France. Parleremo anche di tennis, oggi è il giorno delle semifinali maschili ed è il giorno in cui la Gran Bretagna impazzirà per Andy Murray. Prima del basket dovevo una risposta ad un ascoltatore di ieri, che sarà l'unica parentesi calcistica di questo venerdì, salvo i vostri interventi, naturalmente 800 24 0024 è il numero verde, messaggi 349-238-6666. Ieri un ascoltatore domandava, ma perché, si parlava di Genoa e di Moggi, diceva, ma perché Moggi non può far nulla, non può muoversi, non può avere contatti, mentre Preziosi può costruire Genoa, parlare, fare mercato, fare tutto quello che vuole. Ero preparato sui provvedimenti disciplinari a carico del presidente del Genoa, ebbene 5 anni di inibizione per Preziosi, mentre Moggi è o sarebbe squalificato perché, come saprete, ha restituito la tessera di affiliato alla Federcalcio e dunque attualmente la squalifica non sta nemmeno decorrendo. Moggi squalificato per 5 anni, Preziosi inibito per 5 anni, la distinzione è sottile, il regolamento dice che l'inibizione temporanea vuol dire che il soggetto in questione non può svolgere attività in seno alla Federcalcio, ricoprire cariche federali e rappresentare le società, la propria società in ambito federale, indipendentemente dall'eventuale rapporto di lavoro. Il soggetto inibito può invece svolgere, nel periodo in cui la sanzione è eseguita, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie società. Quindi c'è questo discrimine sottile, ma sappiamo bene come sui regolamenti sportivi si viaggia sempre sul filo del rasoio. Adesso però voglio parlare di basket e allora, come ogni venerdì, sentiamo la nostra sigla. Palla spicchi. Ospite di oggi è un amico, allenatore, nuovo allenatore della Scavolini Pesaro, Luca Dalmonte, che saluto e ringrazio. Buon pomeriggio Luca. Ciao coach. Buon pomeriggio a te e ai radioascoltatori. Come andiamo? Pesaro è in costruzione? Bene. Pesaro è abbondantemente in costruzione, siamo alle prese con situazioni contrattuali in essere, con idee, in un mercato oggettivamente molto difficile. Mercato molto difficile che mi pare di capire, però partirà da un pesarese, Daniele Cinciarini, che nella nazionale, chiamiamola sperimentale, di Recalcati ieri, semifinale persa contro la Croazia ai giochi del Mediterraneo, ne ha segnati 30 in questo 108-104 per i nostri avversari. Giocatore molto interessante, un po' da ricostruire forse, dopo una stagione difficile. La volontà sicuramente da parte nostra è quella di seguire le tracce, le piste di Cinciarini. Non è una trattativa semplice e facile, però c'è da parte nostra sicuramente la volontà, da parte mia nello specifico la consapevolezza che è un giocatore italiano che può ancora migliorare, può ancora trovare uno spazio importante nella sua carriera. Che idea hai su Pesaro? Tu dicevi prima tante idee, che Pesaro vorresti, che Pesaro immagini, che Pesaro potrà essere? Ah, questa è un'idea ancora in essere. Vorrei una squadra solida, capace di stare di fronte ai due impegni, perché Pesaro quest'anno si affaccia nuovamente in Europa, per cui la consapevolezza che due impegni settimanali, soprattutto per alcuni giocatori non abituati, sarà uno stress in più. E per cui dovremmo cercare di fare una squadra omogenea, compatta, abituata anche ad avere il doppio impegno, senza che la Coppa possa portare via troppe energie al campionato, che rimane comunque l'obiettivo primario, obiettivo che dovrà essere quello di fare meglio possibile. Che cosa esattamente lo scopriremo quando tutte le squadre saranno composte, quindi ci daremo un obiettivo. Tanto che si è mosso sul mercato, senz'altro Roma che ha preso Crosarioli e Milan. Guardiamo un po' in casa da altri, perché dicevi mercato molto difficile, ma mercato in movimento, tanti già i movimenti completati. Appunto, Roma prende Crosarioli e Minard, conferma, fa tornare Radori, conferma Jaber e Hudson, conferma gran parte della squadra dell'anno passato, e questa mi sembra già una splendida idea. Siena ancora più forte, in uscita Finlay, in uscita anche Kaukenas che andrà al Real Madrid, presentato ieri Nikos Zizis. Siena che come al solito si muove magnificamente. Siena si muove magnificamente perché ha una base di partenza straordinaria. Chiaro che il rischio che qualche giocatore in uscita dal contratto li possa lasciare, però hanno questa base di partenza che permette loro di individuare con molta capacità da parte loro, ma individuare i giocatori giusti nel sistema già esistente. Per Siena c'è ancora, sentivo la conferenza stampa di presentazione di Zizi, sentivo Minucci, dice Sato resta, sembrava dovesse andare via, McIntyre naturalmente resta Carraretto, settore esterni dunque completato, va via Kaukenas, c'è un posto da extracomunitario libero, si parla di Moss e di Hawkins in uscita da Milano, Milano riesce a trattenerlo, a rinnovargli il contratto. Secondo te per il sistema Siena meglio Moss o meglio Hawkins? Assolutamente Hawkins, non ho dubbi, credo che Moss sia un giocatore contrattualizzato da Siena aspettando che Sato prima o poi vada in uscita. Sono due giocatori molto simili, uno al posto dell'altro, mai insieme. Mentre per Hawkins può essere la definitiva consacrazione, giocatore che anche quest'anno è riuscito alla fine ad essere leader offensivo di una Milano che gli metteva forse troppo peso sulle spalle. È giocatore non sempre costante dal rendimento, però in una squadra come Siena può davvero diventare un attaccante devastante, ancor più di Kaukenas. Non so se è ancor più di Kaukenas, perché Kaukenas è stato bravissimo a ritagliarsi questo spazio partendo dalla panchina e diventando spesso un uomo decisivo. Credo che siano anche due giocatori diversi per pensare che possano dare un contributo simile. Avranno probabilmente un ruolo molto simile, e cioè quella di creare un grande pacchetto esterni. Hawkins ha una capacità straordinaria al di là della sua qualità, e la capacità è che è un giocatore che può dare tantissimo in difesa, è un atleta pazzesco, molto solido, e sta acquisendo, forse lo ha già acquisito definitivamente, una grande forza mentale che gli permette di giocare ad altissimo livello sia nel nostro campionato ma soprattutto in Eurolega. Intanto io ho anche diversi messaggi come questo di Stefania, da tifoso di Orlando e dell'Olimpia Milano, due domande: cosa ne pensa dello scambio che ha portato Vince Carter a Orlando? Magari ne parliamo dopo. Stefania, Olimpia invece, l'Olimpia anche quest'anno cambierà 10 giocatori come negli anni scorsi, rovinando quanto di buono è stato fatto? Stefania, non lo so, l'Olimpia in settimana ha preso Petravicius, che è un eccellente giocatore, ma qui adesso chiederò un'opinione a Cosce dal Monte. Dovrebbe prendere anche Masiulis, non riesce appunto a trattenere Hawkins, credo che cambierà molto Milano rispetto a quella che ha chiuso in finale la stagione passata col grande rebus Vitali, perché Vitali settimana scorsa è stato nostro ospite, il presidente dell'Armani, Livio Proli. Ancora non c'è certezza su questo che Proli ha chiamato anno sabbatico per Vitali dopo una stagione difficile. Come la vedi Milano, coach? Mi sembra che i due nomi lituani siano ottimi. Sì. Credo che entrambi possono dare un grande contributo. Credo che Milano quest'anno avrà un anno di esperienza in più per muoversi sul mercato. Mi sembra che comunque gli obiettivi che si erano imposti all'inizio della stagione, in un modo o in un altro, con un percorso non bellissimo ma efficace, siano stati centrati. Un anno in più di esperienza per tutti, e credo che andranno a costruire, mi auguro, un gruppo sempre più competitivo, perché per la pallacanestro c'è la necessità, certo, che Milano e Roma soprattutto siano le vere antagoniste per Siena, per rendere più bello il nostro campionato in quanto più combattuto. Chiaro. Credo che Milano abbia possibilità economiche, e qui sfondiamo una porta aperta, ma con un anno di esperienza in più anche la capacità di costruire una squadra più giusta, più equilibrata e spero più concorrenziale verso Siena. E su Vitali che ne pensi? Il giocatore appunto reduce, dicevamo, lo sappiamo tutti, da una stagione difficile, non si sa bene, non è ancora chiaro cosa sarà del suo futuro. È evidente un talento del nostro basket che non ha retto come altri prima di lui l'impatto con la difficile piazza di Milano. Non è semplice per me da spettatore, perché altro che non sono uno spettatore, fare una valutazione. L'unica cosa che posso dire è mi auguro per Milano, mi auguro soprattutto per Vitali, che si trovi in una situazione tale per cui, come dici tu, il suo talento non sia disperso e magari un anno di transizione dove può riprendere l'autostima possa poi ridarlo ad altissimo livello, in modo che Milano sicuramente, ma anche il basket italiano, non disperda un talento mentale e tecnico come Luca Vitali. Io ho un ascoltatore che vuole fare qualche domanda a Coach Dal Monte. Fabrizio da Imola, buongiorno. Buongiorno. Dica. Avevo due domande per il coach. Sì. La prima è se la prossima stagione potrà contare sull'apporto di Castromaio e Sapesaro. La seconda si riferiva a una dichiarazione rilasciata da Dal Monte a Superbasket. Volevo chiedergli per quale motivo, a suo giudizio, la Fortitudo non avrebbe rappresentato una soluzione ideale per lui se fosse stato contattato dalla società. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Grazie Fabrizio. Coach, hai sentito? Sì, ho sentito perfettamente. No, innanzitutto, a proposito di Myers, credo che per Calton sia finito il suo ciclo a Pesaro, che è stato un ciclo costruito a più riprese, dove ha segnato sicuramente la storia della Scavolini, però come tutte le belle cose secondo me devono finire al momento giusto perché poi rimangano tali, e credo che Calton sia stato indiscutibilmente un giocatore simbolo per la Scavolini Spar, e è finito il ciclo e credo che per tutti sia bello e giusto così. Sinceramente non ho letto con esattezza quello che io avrei dichiarato, ritengo che la Fortitudo ha fatto una sua scelta e in bocca al lupo alla Fortitudo. Credo che per instaurare un rapporto di lavoro come la intendo io ci deve essere a 360 gradi grande chiarezza, e vedendola da fuori oggi mi auguro che la Fortitudo sia in grado di dare ai suoi tifosi grande chiarezza. Da spettatore non vedo la stessa chiarezza che mi auguro ci sia nel prossimo futuro. Ma non si vede, lo dicono anche i comunicati ufficiali, no? Fortitudo insieme a Livorno, Latina, Rieti sono le quattro squadre che non sono attualmente in regola con i parametri fissati dalla Comtech. C'è tempo fino all'11 di luglio per sistemare la situazione, termine perentorio, quindi il 18 di luglio ci sarà il Consiglio federale in cui si stabilirà chi è dentro e chi è fuori dai campionati dell'anno prossimo. Quindi ha ragione il coach, da spettatore la chiarezza non la si può vedere guardando in direzione della Fortitudo, ma nemmeno della Virtus. Poi andiamo a Bologna che proviamo a chiarire un po' la situazione delle due. Tornando invece alle squadre che stanno nascendo, coach, c'è Roma, come dicevo prima, che inserisce Crosariol, Ricky Minard, Aradori, che tra l'altro ieri Cinciarini 30, Aradori 29 in quella sconfitta azzurra, confermando fino alla fine i progressi fatti da questo giocatore con la maglia di Biella. Conferme per Jaber e Hudson e si riparte dal nucleo dell'anno scorso. È un modo di operare finalmente vicino a quello di Siena. Si va in direzione di una costruzione, non di una botta di un anno e via. Mi sembra un'ottima la filosofia, un'ottima scelta. La scelta sui giocatori mi sembra giustissima. Io poi ho una stima impressionante per Crosariol. Spero per lui che ci sia lo spazio giusto e le modalità per un utilizzo per il centro migliore che noi abbiamo in Italia, è ancora molto giovane. Grandissima stima per Minard, credo che Aradori stia bruciando con progressi intensi le tappe della sua carriera. Roma sta facendo bene, ma vale qui un po' il discorso di Milano. Per un addetto ai lavori e non solo, così il vedere che Roma e Milano stiano facendo sempre meglio con più attenzione non solo all'anno immediato ma al proseguimento del proprio percorso, dicevo, da addetto ai lavori, spero che entrambe possano essere buone concorrenti a Siena per rendere il campionato sempre più interessante. Tu dici che Rosario è il miglior lungo italiano al momento. C'è anche un emergente che è Cousin della neopromossa Vanoni Soresina, in un settore, in un reparto in cui Re Calcati non naviga nell'oro, eh? No, assolutamente non c'è tanto materiale. È vero, Cousin ha fatto benissimo, mi auguro che possa nella prossima stagione, giocando in Serie A, confermare i progressi che ha accennato in Lega 2, che è un ottimo campionato laboratorio proprio per i giovani o medio giovani italiani. È chiaro che Cosariola ha già dimostrato, per impatto atletico, fisico e per le stagioni disputate, che può essere sicuramente un gradino sopra ad oggi, ma non definitivamente, a Cousin, e che Roma ha fatto benissimo a fare questo tipo di investimenti. Come promesso, volevo rubare una battuta a Luca Dal Monte sul suo ultimo grande amore, cioè Cantù, che ha lasciato dopo al termine del campionato. Cantù che riparte da Trinchieri al posto di Dal Monte in panchina, non ancora, ma cioè, glielo auguriamo nel cuore dei tifosi di Cantù, che come pochi altri hanno amato Luca, coach Dal Monte. Riparte da Jerry Green, ha preso un centro come Ortner. Che pensieri ti vengono su Cantù, coach? Ah, mi sembra che ci sia la volontà di creare innanzitutto un asse molto solido, perché Green è un giocatore non straordinario come impatto sullo spettacolo, ma di grandissima economia all'interno di una squadra, perché è un giocatore mentalmente con grande esperienza, è sempre disponibile a fare ciò di cui la squadra ha bisogno, può anche essere un point scorer, cioè un playmaker, sì, che può fare punti se c'è necessità. L'ho già dimostrato in carriera, essendo il primo marcatore 2 anni fa nel campionato tedesco. Quindi è un giocatore estremamente solido. Il centro è Ortner, ma Ortner secondo me bisogna guardarlo insieme con Lideka, e quindi la coppia forma reparto, per cui l'asse playmaker pivot sicuramente è un asse solido, costante nel rendimento, non eccezionale dal punto di vista statistico magari, ma di grande importanza a livello di economia. Ha un giocatore dalla panchina che può sicuramente far male a tanti, come Mazzarino. Adesso probabilmente andrà alla ricerca dei giocatori americani per dare quel quid di qualità e di talento dentro la solidità dell'asse playmaker pivot. Cosa un po' banale, un po' retorica, ma la prima volta che tornerai a Cantù sulla panchina di Pesaro? Non oso immaginare, voglio vivere questo momento di attesa con tutte le emotività possibili, sperando di essere in grado, come mi auguro, poi di azzerare tutto quando si inizia a fare sul serio. Devo dire però che nel frattempo la frequentazione con i ragazzi di Cantù rimane, c'è ancora, e questo va al di là del mio ruolo, e oggi sono Luca per loro e loro sono persone a cui tengo tantissimo per me, e non sono più tra virgolette i miei tifosi, ma sono persone che ho conosciuto e con cui sto benissimo a prescindere dalla pallacanestro. Tra l'altro mi pare che tu sia appena tornato da quelle parti per un'iniziativa, una delle tante iniziative che gli Eagles di Cantù hanno organizzato per le zone colpite dal terremoto, mi sbaglio? Sì, sono attualmente proprio in zona, perché sia ieri sera sia stasera sarò ancora con loro, ed sono momenti, ripeto, belli, tranquilli, sereni, che vanno, e quelle cose che mi piacciono, che vanno al di là di quello che è un ruolo, ma proprio una questione personale, cose che a me piacciono tantissimo. Coach, grazie, buon lavoro, a presto. Grazie a voi. Grazie davvero, Luca Dal Monte. E noi adesso andiamo a Bologna, io vi aspetto se volete intervenire, 800 24 00 24, potremmo parlare anche di un mercato NBA che insomma si muove parecchio, perché non so se lo sapete, notizia, ma gli appassionati senz'altro, notizia delle ultime ore è quella del colpo dei Lakers, che hanno preso il bad boy Ron Artest. Ma d'altra parte Phil Jackson, di giocatori di questo tipo se ne intende, riesce a gestirli, forse il vero erede di Dennis Rodman. Ebbene, Artest giocherà l'anno prossimo nei Lakers ancora più forti, Lakers che però perdono, rischio calcolato, Ariza, che è stata una delle rivelazioni di quest'anno, che va a Houston. Adesso però da Houston, dai Lakers eccetera, a Bologna, dove ci sono ben altri problemi, io non riesco ancora a capire, della Fortitudo si è detto, e adesso ci facciamo spiegare, non riesco ancora a capire chi sarà il proprietario della prossima Virtus, Sabatini oppure qualcun altro. Situazione ancora molto confusa, chissà se Massimo Seller riesce a chiarirci le idee. Buongiorno Massimo. Buongiorno a voi. Spero di darvi qualche elemento in più. Quanto a chiarire le idee adesso è veramente difficile. È un po' tanto, sì. Partiamo dalla Fortitudo. La Fortitudo, come tutti sanno, ha ricevuto un parere negativo da parte della Comtech alla sua iscrizione al campionato. Serve 1 milione di euro ad oggi, 700.000 per ricapitalizzare, 300.000 per fare in modo che i debiti che in questo momento sono già stati, diciamo così, dichiarati esigibili, non sovrastino il capitale sociale. E tutto questo ha messo chiaramente in condizione l'attuale presidente Gilberto Sacrati di indire un'assemblea dei soci per ricapitalizzare. Questa assemblea dei soci non c'è stata, ci sarà martedì 8 luglio, quando la Comtech esige che tutto sia in ordine per l'11 luglio. Quindi i tempi sarebbero stretti se quella assemblea andasse male. Massimo, realisticamente, prego, quali rischi e quanti rischi di vedere la Fortitudo arrivare alla deadline dell'11 luglio non in ordine? Rischi non ce ne sono, in questo senso. Il coniglio dal cilindro potrebbe levarlo l'avvocato Palumbi, che è il socio di minoranza, un socio storico, sì, che comunque potrebbe decidere in quel momento, qualora Sacrati non ce la facesse, mercoledì 8 luglio, di ricapitalizzare lui, diventando automaticamente il proprietario della Fortitudo. Se non lo fa è perché evidentemente i debiti sono tanti, e adesso si stima che i debiti siano sull'ordine dei 12 milioni di euro, una cifra molto pesante che comunque graverebbe sull'esistenza della Fortitudo. Ora noi sappiamo che agenti e giocatori non si muovono e non portano avanti la procedura dei lodi, perché sanno che ad oggi servirebbe solo per appesantire ulteriormente le procedure, sì, ma una volta che la Fortitudo riesce ad iscriversi al campionato è chiaro che tutti l'aspetterebbero alla porta. Ed è questo un po' il rebus da sciogliere, cioè ora ci si chiede se ha senso mantenere in vita una società che ha queste perdite, oppure se ha senso non iscriversi e magari recuperare un titolo. Sì. Ma comunque confermi il fatto che vediamo cosa succede di Rieti, però insomma Rieti viaggia nelle solite acque limacciose in cui si trova ormai da tante stagioni, si sta cercando, Papalia sta cercando di salvare salvabile come ha fatto negli ultimi anni, presentando una società formalmente in ordine ma che di fatto non lo è. Poi l'ultima parola toccherà a Dino Meneghin e sarà quello il primo un test importante, un giorno importante, una scelta importante per Meneghin, perché è chiaro che società di questo tipo non possono essere tenute per sempre attaccate al respiratore artificiale. Mi confermi invece che la Fortitudo, se dovesse uscire da questa palude, farebbe la Lega 2, cioè non ambirebbe al ripescaggio? Ma sai, il problema del ripescaggio è un problema che ad oggi non si pone, e non si pone perché comunque il secondo passaggio, cioè l'idea di iscrivere la Fortitudo al campionato, il giorno dopo i lodi di giocatori e agenti vanno avanti, sì, questo è evidente. Ora io non credo che il Consiglio federale possa decidere di ripescare una squadra che deve risolvere il problema Drucker, perché ricordiamo che oggi la Fortitudo non può neppure fare mercato. C'è una differenza tra la Fortitudo e Rieti: mentre la proprietà di Rieti ha sempre ammesso le difficoltà e ha sempre detto lottiamo contro le difficoltà per mantenere viva una piazza, fino a un mese fa in Fortitudo il problema sembrava esclusivamente sportivo. Certo, invece da un mese a questa parte è Drucker che la società dichiara di aver pagato e poi in realtà non ha pagato completamente, insomma sono successe tutta una serie di cose, il lodo di Bergamaschi, l'agente di James Thomas, che hanno, come dire, è stato una sorta di climax, cioè di continuo aumentare di queste voci. Si è arrivato che la Conte non, di fatto ad oggi dice la squadra non può iscriversi. La differenza è proprio questa, cioè è che qui si è cercato di nascondere le difficoltà, salvo poi doverle risolvere in un solo mese. Massimo, in un minuto invece la Virtus, com'è la storia? La Virtus, la questione è molto semplice. Sabatini ha dichiarato che il club era in vendita, sì. Si è presentato, ci sono presentate due persone, un intermediario che si chiama Stefano Tonelli e invece uno direttamente interessato all'acquisto, Luca Bergamini, a rappresentanza di un gruppo di persone. Sì. Questo gruppo di persone si è dichiarato disponibile a versare 6 milioni di euro in un certo tempo. Quel tempo è saltato, è stata data un'altra proroga e anche quel tempo è saltato. Sì. Nel mentre Claudio Sabatini ha preso informazioni su tutte queste persone sostenendo che non sono in grado di, per quanto siano tutti stimati professionisti, non siano in grado di sostenere un'operazione del genere. Il risultato è che potete anche farmi il bonifico da 6 milioni di euro, ma mi dovete dire per chi lavorate. E su questo la trattativa si sta arenando. Ho capito, quindi tra l'altro ho lanciata la campagna abbonamenti, quindi la Virtus resterà nelle mani di Sabatini, magari in attesa di vedere. Io non escludo che non ci sia questo bonifico da 6 milioni di euro, anzi. Questo probabilmente ci sarà lunedì o la prossima settimana. Il problema è che lui adesso veramente vuole sapere chi questo gruppo rappresenta in realtà. Io vorrei sapere invece se veramente ha intenzione di vendere la Virtus, ma credo che la risposta sia solo nella testa dell'attuale presidente. Grazie Massimo, alla prossima. Grazie a voi. Alla prossima con Massimo Selleri. Prima di volare al Tour de France, Giovanni da Milano, grazie per l'attesa, buongiorno. Ciao a tutti, scusatemi l'intervento, volevo dire questo, io sono un po' così critico nei confronti del progetto Siena in questi termini. Quando si esalta Siena bisogna tenere presente due cose: primo, che il progetto Siena, se è il progetto vincente attualmente in atto, è un progetto che prevede gli italiani relegati a un ruolo assolutamente marginale. E quindi significa che gli italiani costano troppo per quello che rendono e Siena ha deciso di farne praticamente quasi a meno. Sì. E secondariamente che sicuramente Siena il progetto funziona perché in Italia è sicuramente la società che ha il budget maggiore e può permettersi di fare delle gare con altre società, vedi Milano per il caso O'Higgins, e superare le richieste dei giocatori fatte da altre società italiane e quindi accaparrarsi i giocatori che ritiene migliori. Sì, lui, Giovanni, fa le scelte giuste. No, un attimo, Siena ha il budget più alto, sì, in parte, ma non è solo una questione di soldi, io credo, anche perché ad esempio un giocatore come McIntyre potrebbe andare ovunque in Europa a guadagnare quattro volte tanto e invece ha scelto di rimanere a Siena. Siena mette sul piatto non solo i soldi, che può mettere sul piatto anche Milano ad esempio, perché non è molta la distanza tra Siena e Milano dal punto di vista del budget. Però Siena mette sul piatto un progetto vincente, no? Sì, sicuramente. Certo che è aiutato comunque dalla disponibilità finanziaria, insomma, sì. Perché stiamo parlando di professionisti che ragionano anche in termini economici. Non credo che Zizis venga a Siena per prendere molto meno di quello che prendeva il CSK di Mosca. Può darsi che prenda forse qualcosina meno per giocare un pochettino di più, forse, ma non credo. Sì. Che rinunci a molto del suo stipendio per venire. No, a Siena. Anche perché dopo aver sentito Minucci pare che una parte di quei soldi continuerà a versarglieli il Cesca. Ecco, poi questa cosa non ero a conoscenza. Io ho fatto questo. E sugli italiani, però, la realtà è che gli italiani in Siena sono o naturalizzati, che tra l'altro poi non partecipano neanche alla nazionale, tipo Storo che rinuncia tutti gli anni, o comunque hanno un ruolo onestamente abbastanza marginale, anche che ancorché importante, sì. Perché comunque Carraretto, Res hanno messo il loro mattoncino, ma i mattoni più grossi li mettono altre persone. Vorrà dire che non ci sono italiani abbastanza bravi per il progetto di Siena, Adesso l'idea è vitale, però a Siena non, insomma, persegue una logica diversa. Forse costano troppo, allora costano troppo. Dobbiamo lamentarci con le regole di adesso, certo. Il progetto vincente è lasciare gli italiani in A2. Sì, oppure, che, oppure evitare di proteggerli, perché se costassero un po' di meno sarebbero competitivi, perché c'è un giocatore, inutile fare i nomi, che quest'anno ha giocato a Milano, doveva andare a Siena, però per, quella, per ciò che voleva Siena ha detto no, io non, per quei soldi prendo un giocatore differente, non mi interessa il passaporto. È chiaro che Siena persegue queste, queste logiche, che sono logiche, logiche di mercato, logiche professionali e professionistiche, come dovrebbe essere. È chiaro che se i regolamenti ti impongono di prendere un italiano che costa il doppio rispetto al tuo miglior giocatore americano, non sono regole che aiutano la pallacanestro, secondo me. Giovanni, grazie, ci sentiamo con Palla Spicchi, salvo notizie su cui vi torneremo e vi terremo aggiornati nei prossimi giorni, perché A Tempo di Sport non va in vacanza, però la pagina di Palla Spicchi ogni venerdì qui all'interno di A Tempo di Sport. Adesso però voglio andare al tour. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio a tutti. Pronti a partire, Monsieur Stagi, da Monte Carlo domani con la cronometro. La notizia del giorno è che a Monte Carlo, alla cronometro iniziale del tour, ci sarà Tom Bonen. Sì, alla fine anche questo primo giallo, no? il giallo dell'estate, il primo è stato risolto, il CAS ha dato ragione al corridore belga, che tra l'altro è un corridore belga con residenza a Monte Carlo, quindi c'è un modo particolare non poter essere la corsa che gli passa sotto casa, e quindi un protagonista in più, il tour ne ha già tanti, secondo me è anche giusto schierare Tom Bonen, perché effettivamente aveva avuto dei problemi, ahimè, con la cocaina, ma col ciclismo c'entrava ben poco, purtroppo, anzi. E il discorso sarebbe da allargare, chiedersi se la sua squadra si è dannata così tanto per farlo tornare in bicicletta. Forse bisognerebbe anche fare qualcosa per l'uomo Tom Bonen, ma qua andremo un po' troppo fuori dai canoni. Per il momento si sono limitati semplicemente a risolvere il problema del Bonen corridore, probabilmente invece le fragilità del buon uomo restano quelle di sempre, quindi saranno, speriamo che possa servire il ciclismo, ma credo poco a queste cose, in realtà per certe situazioni bisogna curarsi. Certo, non c'è dubbio. Il Bonen corridore comunque sarà in asta di partenza del tour, a impreziosire il solito parterre de Rouen. Proviamo a fare le carte a questo tour, Pier Augusto. C'è il grande favorito, c'è Alberto Contador con Lance Armstrong nello squadrone Astana a fargli da scudiero, poi vediamo se sarà vero fino in fondo. C'è Andy Schleck in rampa di lancio, c'è Sastre che ha vinto l'ultimo tour. Sono tutti, insomma, mancano certamente le punte italiane, mi viene in mente prima di tutti Ivan Basso, però un tour come al solito molto incerto. Sì, è un tour incerto, interessante, un tour non difficilissimo, ma non per questo facile, perché come tutte le corse, soprattutto quando c'è la posta in palio molto elevata, anche le corse facili diventano difficilissime. Tra quattro giorni, tanto ne sapremo qualcosa già da domani, perché è un cronometro di 15,5 km, con un inizio piuttosto difficile, che con ogni probabilità lancerà un altro grande nome del ciclismo mondiale, che è Fabian Cancellara in maglia gialla, ma vediamo anche come sapranno comportarsi, appunto, Contador, Lance Armstrong, che ambisce a rompere un po' le uova nel paniere al rampollo di casa sua. Dobbiamo vedere un attimo anche che notizia hai su Armstrong, Pier Augusto? Lui sta molto molto bene, è dimagrito rispetto al Giro d'Italia, ha perso circa 2 kg, non ha perso però la sua, suo carisma, la sua voglia di essere al centro dell'attenzione, di catalizzare l'attenzione di tutti, sta cercando un po', appunto, di portare via spazio ad Alberto Contador, ma io devo dire, contrariamente a quanto hanno detto che tra i due c'è grande frizione, io vedo molto più agitato Armstrong a fare questo gioco del guastafeste, ma Contador mi sembra invece molto, molto tranquillo e sereno, anche perché sa perfettamente che poi sarà la strada, e di strada da fare ce n'è tanta, di salita pure, e lui se va come è sempre andato negli ultimi anni nei grandi giri, ci sarà ben poco da fare. È lui il tuo favorito? Assolutamente, perché secondo me lui è veramente un talento nato per i grandi giri. Ricordiamo che ha sempre già solamente 28 anni, ha già vinto Giro Tour e Vuelta, quest'anno potrebbe centrare per la seconda volta il Tour de France. Bisogna vedere le variabili vere, sono due uomini di assoluta esperienza come Cadel Evans, che potrebbe essere per il terzo anno di fila secondo, e credo che l'australiano non abbia assolutamente voglia di diventare appunto l'eterno secondo. Carlos Sastre, che silenzioso come sempre cercherà di fare uno scherzetto a tutti come l'anno scorso, e quindi vincere a sorpresa il Tour de France. E poi Denis Menchov, che è russo con residenza spagnola, che ha vinto recentemente il Giro d'Italia, l'anno scorso al Tour è arrivato quinto, quindi ha tenuta, c'ha esperienza, va forte a cronometro, va forte in salita. Nessuno ne parla, lui è veramente un punto di domanda molto molto grande. E poi c'è il nuovo che avanza, il nuovo che avanza in assoluto è dato da Andy Schleck. L'anno scorso ha corso per la maglia bianca con incoscienza e esuberanza, quest'anno invece avrà delle responsabilità in più, un piazzamento per lui non sarà una sconfitta, quindi deve puntare decisamente alla maglia gialla. Lui non si nasconde, questo è pure il suo favore, perché vuol dire che già pensa da campione, quindi non si tira indietro. Però deve anche stare attento, perché fino ad oggi ci ha sempre abituato che una giornata storta gli capita, dove gli va un po' in massa tutto e si gioca quello che di buono è riuscito a fare magari nelle giorni, nelle settimane precedenti. È un esame di maturità importante anche per lui. Un esame importante di maturità c'è anche per il nostro unico vero rappresentante. Piero Augusto, guarda, facciamo così: ti interrompo un attimo per sentire il traffico. Poi per chiudere, appunto, parliamo della pattuglia italiana guidata da campione del mondo Alessandro Ballan, che ha avuto una stagione a dir poco travagliata fin qui, e da Pippo Pozzato, che invece si presenta al Tour con la freschissima maglia di campione d'Italia vinta domenica scorsa. Allora, Piero Augusto Stagi, la pattuglia italiana al Tour. Quest'anno non abbiamo uomini in grado di fare classifica. Sì, diciamo forse uno. Speriamo di giocarci bene la carta di Vincenzo Nibali, che ragazzo messinese trapiantato in Toscana, 24 anni, alla sua seconda partecipazione al Giro d'Italia. L'anno scorso lo squalo dello stretto, come viene chiamato, è arrivato ventesimo, a circa 25 minuti da Carlos Sastre, terzo nella speciale classifica dei giovani, quindi diciamo ha le carte in regola per poter ambire a una buona posizione al Tour de France. Soprattutto deve dimostrare, il suo obiettivo minimo è quello di entrare nella top 10, entrare nei primi 10 del Tour de France, la seconda partecipazione in mezzo a questi tanti campioni, sarebbe veramente un bel biglietto da visita per se stesso, ma anche per tutto il movimento italiano, che scoprirebbe, troverebbe un erede per le corse a tappe dei prossimi anni. Un ciclismo che, come sappiamo, è orfano di molti corridori che sono fermi per brutte vicende di doping, altri perché ormai l'anagrafe li chiama fuori, altri ancora, come ad esempio Ivan Basso, che avrebbe voluto correre il Tour de France ma ha preferito concentrarsi sul Giro di Spagna dopo aver disputato il Giro d'Italia, e con ogni probabilità rientrerà alla Gran Boucle il prossimo anno. Nibali quindi è l'uomo della classifica, con lui in maglia liquida se ci sarà anche Franco Pellizzotti, terzo classificato al Giro d'Italia, però credo che per Franco l'accoppiata Giro Tour sia molto dispendiose, quindi lavorerà con ogni probabilità per fare una bella settimana, una bella prima settimana, e poi si metterà al servizio del giovane Nibali insieme a un ragazzo cieco molto molto promettente che si chiama Roman Kreuziger, sempre della pattuglia liquida. E poi abbiamo una serie infinita di guastatori diciamo, che riescono a guastare, a rompere un po' le uova nel paniere, a incominciare, come hai detto tu, dalla maglia di campione del mondo Alexander Ballan, che è un po' convalescente perché viene da una primavera sfortunatissima, ha preso un virus, è stato fermo praticamente 3 mesi e ritorna alle competizioni praticamente al tour. Con lui ci sarà il corregionale Filippo Pozzato, che domenica scorsa si è laureato campione italiano, lui sta molto bene, credo che domani a Monte Carlo si misurerà anche a massimi livelli nella cronometro, perché cercherà di rimanere lì a pochi secondi dalla maglia gialla per poter cercare di conquistarla con il sogno, per rimanere in scia, in attesa, con il sogno, inseguendo il sogno di vestirla per qualche giorno questa maglia gialla. Pier Augusto, ne parleremo ovviamente tutti i giorni di Tour de France, grazie a te, i nostri occhi e la nostra voce al Tour. Io ringrazio Pier Augusto Stagio, adesso andiamo di corsa perché gli ultimi 5 minuti del nostro programma voglio trascorrere a Wimbledon con Alessandro Merli. Buongiorno Alessandro. Sì, buongiorno. Giorno delle semifinali maschili, dunque. Adesso c'è in campo Federer con Haas. Come sta andando? Beh, è cominciato in modo, direi, molto interessante, perché Haas non cede assolutamente campo a Federer. Sono 6-6. È cominciato il tie break proprio in questo istante. Haas è andato su 1-0 nel tie break. Comunque ognuno dei due ha tenuto il proprio servizio. Haas, va ricordato, è un giocatore un po' risorto, se possiamo dire, si era distrutto una spalla, sembrava che la sua carriera fosse finita, è un giocatore che ha avuto i suoi anni migliori all'inizio del decennio, era arrivato in semifinale 2 volte all'Open di Australia, anzi 3 volte all'Open d'Australia, gli si pronosticava una grande carriera e poi invece una serie di infortuni l'aveva messo fuori gioco, però è un giocatore di grande talento e lo sta dimostrando contro Federer, al quale sta tenendo testa, nonostante sappiamo che Federer da queste parti sia uno che si fa rispettare. 5 titoli consecutivi e una finale persa, come sappiamo, nel modo che sappiamo, l'anno scorso con Nadal. A proposito di risorti, ce n'è un altro che sfida il sogno britannico, Andy Roddick contro Murray a seguire. Roddick non è un giocatore da sottovalutare per Murray, nel senso che Andy Roddick comunque è probabilmente in possesso del miglior servizio tra tutti i giocatori del singolare maschile. La cosa singolare è che il miglior servizio si scontra con la miglior risposta al servizio, di cui si dice sia dotato Murray. Naturalmente Murray ha anche su di sé la grossa pressione del fatto che tutti aspettano un vincitore britannico dal 1936 e dal 38 nessuno giocatore delle isole va in finale, quindi in semifinale ci è arrivato 4 volte Tim Henman e sappiamo come è andata a finire. Diciamo che Murray è un lottatore, a differenza di Henman, che era così un perdente di classe, sì. E tutti si aspettano una finale naturalmente Federer-Murray, ma non è detto. A questo punto persino Haas potrebbe avere le sue chance, comunque se le sta giocando in maniera più che dignitosa. 2-2 al tie break, primo set tra Haas e Federer. Alessandro, se volessi prendere un aereo domenica e venire a vedere la finale a Londra, non ho il biglietto naturalmente, vado da un bagarino, quanto mi costa? Ma è circolata la cifra ridicola su internet di 20.000 sterline, quindi circa 24.000 euro per un posto per un posto sul Center Court. Naturalmente questo è quello che il venditore chiede, bisogna vedere se c'è qualcuno disposto a darglielo, cioè a comprarglielo questo biglietto. Diciamo che cifre più ragionevoli circolano sulle 5, 6, 7 mila sterline. Con quella cifra uno ha una ragionevole speranza, una ragionevole possibilità di entrare in campo. 20.000 sterline francamente mi sembra una cifra ridicola. Sì, sì, ma anche 8.000 euro mi sa che la guardo in TV, facciamo così. Poi tanto domenica ne parliamo insieme, a proposito, dalle 18 alle 19 il l'appuntamento con lo sport da questa domenica e per tutta l'estate. Alessandro, per chiudere invece, finale femminile, ieri battaglia vera per Serena Williams, che è riuscita a raggiungere in finale la sorella Venus. Solito derby in famiglia, Serena ci arriva dopo questo confronto durissimo contro Dementieva, mentre Venus Williams ha letteralmente asfaltato la povera Dinara Safina. Sì, il pubblico sembra essere un po' stancato di questi duetti fra le sorelle Williams, francamente lo dimostra il fatto che nonostante Dementieva non sia una delle giocatrici più simpatiche del torneo, anche se è una giocatrice di buona classe, di buon livello, ieri il campo centrale era nettamente schierato con lei e contro Serena, forse le ha dato anche una piccola spinta a dare la prestazione che ha dato, visto che è una giocatrice anche psicologicamente spesso un po' fragile. Comunque abbiamo la finale che tutti si aspettavano fin dall'inizio del torneo, Serena contro Venus, Venus contro Serena, insomma è la ripetizione dello stesso copione. Sono 10-10 nei confronti fra di loro, nei confronti sul campo centrale in finale due volte ha vinto Serena, una volta l'anno scorso ha vinto Venus, è tutta da giocare. Si diceva nei primissimi tempi della carriera delle due che fosse il padre Richard a decidere chi doveva vincere, no? Decidere un po' a tavolino a seconda di chi secondo lui lo meritava o ne aveva più bisogno in quel momento. Adesso credo che le due sorelle veramente se la giochino e basta, come si è visto l'anno scorso quando ha vinto Venus. Sì. Se dovessi fare una scommessa per una delle due e Venus anche quest'anno che è sembrata in forma migliore, però sì, obiettivamente fra le due, queste due è sempre impossibile dirlo. Poi non sottovalutiamo il fatto che Serena è una lottatrice pazzesca, come si è visto anche ieri. Come si è visto anche ieri in questo match interminabile. Grazie a Alessandro Merli, che ritroveremo domenica per parlare della finale, mentre è in corso il tie break, lo ricordo, tra Federer e As. Battaglia che nei tie break siamo 4-5 e As sta giocando davvero un tennis strepitoso. Ci fermiamo qui, domani non c'è tempo di sport perché per l'estate il sabato ce lo teniamo libero, siamo qui naturalmente e saremo qui tutti i giorni dalle 14 alle 15 e la domenica dalle 18 alle 19. Grazie a Flavio Suardi per il lavoro in redazione, a Fabio Cantadori in regia, a domenica.